Addetti al cinema. Pensavo di iniziare questo film con il racconto di un sogno che ho fatto l'altra notte. Ecco, allora nel sogno mi trovavo in un ambiente buio, inquietante, ma nello stesso tempo anche familiare. Mi muovevo lentamente, l'oscurità era profonda e le mie mani toccavano una parete che non finiva mai. In altri film, in sogni come questo, mi liberavo volando via. Ma adesso, chissà, un po' più vecchio, un po' più pesante, facevo una gran fatica a sollevarmi da terra. Infine ci riuscivo e mi trovavo librato a grandissima altezza. E il paesaggio che vedevo tra squarci di nubi laggiù in fondo, cos'era? La città universitaria? Il policlinico? Sembrava un reclusorio, un rifugio antiatomico. Alla fine la riconoscevo, era Cinecittà. L'ultimo Fellini giusto martedì scorso non è uno dei suoi migliori. È mancante di strutture coesive, si ha la sensazione che non sia del tutto sicuro di quello che vuole dire. Oddio, io l'ho sempre definito essenzialmente un grande tecnico del cinema. D'accordo, La strada era un buon grandissimo film. Grandissimo nell'uso dell'energia negativa. Io sento che mi sta per venire un colpo. Smetti di ascoltarlo. Smetti di ascoltarlo. Mi strilla le sue opinioni negli orecchi. Mettiamo ad esempio in Giulietta degli Spiriti o nel Satyricon. Io lo trovo incredibilmente indulgente. Sai, è veramente uno degli autori più indulgenti. Ma veramente, la parola, sai, chiave è indulgente. Indulgente. Ma cos'è che sei depressa? Non ho fatto la terapia, ho dormito troppo. Ma come hai potuto dormire troppo? È stata la sveglia. Tu sai quanto mi offendono queste allusioni? Lo so, per il nostro problema sessuale, vero? Ehi, senti, tutta questa coda deve conoscere il ritmo delle nostre copule? Come Samuel Beckett. Sai, io ne ammiro la tecnica, ma non mi colpisce mai a livello viscerale. Allora lo colpisco io a livello viscerale. Ti aldi. Ma mi sta sputtando sul collo questo. Mi sta sputtando sul collo. Vuoi sapere un'altra cosa? Sei talmente egocentrico che se io non faccio la terapia, tu pensi solamente a come può riflettersi su di te. Troppo interiorizzato. Sì, forse è il primo appuntamento. Si saranno conosciuti con un'inserzione sulla rivista Vita Ermeneutica. Accademico trentenne desidera conoscere donna interessata a Mozart, James Joyce e sesso anale. Ma quale nostro problema sessuale? Io sono relativamente normale per uno cresciuto a Brooklyn. Ok, scusa tanto, il mio problema sessuale è? Che 10 minuti no, alla non fine l'ho letto, dello di chi è? Di Harry James? Che cos'è? Forse il seguito di Giro di Vite? Il mio problema? Della televisione. Un certo Marshall McLuhan ha nei limiti angusti del suo essere una grande intensità, mi capisci? E lui è un grande mediatore. Che cosa non darei per avere un'enorme palata di cacca di cavallo? Ma cosa fa uno quando si trova incastrato in una coda con un tipo del genere alle spalle? Ehi, un momento, è una cosa da impazzire. Posso dire le mie opinioni. Ah, certo, lo puoi dire, ma deve dire la voce alta. Insomma, non si vergogna di pontificare così. È la cosa più buffa, è Marshall McLuhan. Ma lei sa niente di Marshall McLuhan. Ah, davvero? Senti, io tengo un corso all'Università di Columbia. Si chiama TV, Media e Cultura. E credo che le mie valutazioni sul critico McLuhan, abbiano una certa validità. Oh, davvero? Beh, sì. È buffo, perché guarda caso è il signor McLuhan proprio qui, quindi, ecco, per favore, senta. Lei venga qui un secondo. Diglielo. Ho sentito quello che ha detto. Lei non sa niente del mio lavoro. Lei sostiene che ogni mia topica è utopica. Come se è arrivata a tenere un corso alla Columbia è cosa che desta meraviglia. Ragazzi, se la realtà fosse così. Vero tanto in aria il tuo sombrero. Chi è sta cicciona? Mia mamma. Ah, per banco. Bella donna. Successo, c'è, gli applausi non mancano, ma il suono di quegli applausi che non mi convince, c'è qualche cosa, il teatro che si stacca dalla realtà, che non rappresenta più la vita, capisci, non rappresenta più la società, e allora noi uomini di teatro, tu lo sai meglio di me, cadiamo, è triste dirlo, nella pania, nella lusinga del cinema, dell'era dei milioni del cinema. 60 milioni, Giulio mio, 60 milioni mi hanno dato per l'ultimo film. Li ho tutti qui sul cuore, guarda, come 60 anni che mi invecchiano, 60 anni non meritati, non faticati, capisci? Giuliano ti ha dato un pugno in un occhio? Sì. E tu dovevi dargli un calcio in culo. Ricordati, chi picchia per primo picchia due volte. Poi nella vita c'è sempre da rimettersi a buscarle. A te piace di buscarle? No. E allora picchia, no? Picchia sodo. Ricordi il proverbio? Sì, il mondo è tondo. No, non quello. Meglio un bel processo che un bel funerale. E adesso mangia la pera che arriva la mamma. Non ho più fame. Dai, mangia la pera, su. Non c'ho fame. Chi se ne frega, non mangiare. Io, ma per niente, abbandonato, per Dio, divento matto, divento. E lo so io perché, i cazzotti fanno male. Fanno male quando si prendono, ma quando uno ha il gioco di tronco come te. Beh, insomma. Lo sai che Bordignon c'è il sinistro di vetro? E io ho visto combattere in TV. Beh. C'è il pugno di vetro infrangibile. Ma no. Mena, mena, mena. Madonna. Ortignon me la brutto, lo dico io. Lo metti giù quando vuoi. Adesso lo dici te. Telefoni, qual è come se fosse terapia tapioca che ha aperto la supercazzola? Dei tre. Non mi ha capito bene. Volevo dire, dei tre telefoni, qual è quello col prefisso? Ah, quello lì. Grazie. Sorella, ho terapia tapioca come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra? No, eh? Pazienza. Americano, mami. Vedi? Vedi il rubinetto, l'acqua? Vedi il tubetto che assorbe, mami? Questo ce l'hanno negli uffici della quinta strada, vero? Acqua pura, sterilizzata, americana, vero? Ma se sono seriato. È un caso difficile, molto interessante, una bellissima neoplasia, proprio all'altezza del professor Azzarini. Bravi, grazie di aver pensato a noi, si accomodi signora. Gli interventi del professor Azzarini si dividono in 3 categorie, prima, seconda e terza categoria. Nel suo caso io non conosco le loro condizioni economiche. Siamo preparati a tutto. Sì? I soldi in già mancano. Beh, e che so? Bene, è così che si parla. Di fronte al male? Ci siamo pure venduti la terra. Bravi. Sì. È tutto quello che avevano. Per quel che rende oggigiorno la terra. Allora di prima. Soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Soldi, soldi ovvero papa braschi, ti danno donne, whisky, salute, figli maschi. Perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Senti, che lavoro, me l'ero dimenticato, che lavoro fai? Beh, mi interesso di molte cose. Cinema, teatro, fotografia, musica, leggo. Concretamente? Non so cosa vuoi dire. Non sai, cioè, che lavoro fai? Nulla di preciso. Beh, come campi? Ma te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose. E l'affitto? Vivo con mio fratello e non lo pago. Vabbè, dico i vestiti. Un amico per esempio che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti. Vabbè, il mangiare. Mi ospitano molto spesso. Questa sigaretta qui. Ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato 2 pacchetti di questo. Coppia innamorati, 8.500, 1.500, 6.000 danni, 2 giorni di lavoro, tavolinetto dorato, con stampa estera, su maiolica. Trenta ore di lavoro, 5.000 lire. 4 pagliaccio, 10 ore, 24.000, 9.000, 5.000, radio, libro, promessi, sposi, 10.000 in Svizzera, 15.000 a Milano, e me la danno qui, guarda. Se becco, guarda, se becco quello che gli è venuto in mente di fare sta roba. Mago in cucina, apre le scatole, prepara maionese, affili i coltelli. Magic moment. The magic of candelit, of lifting of candelit, with thrones on candles. Mala io al culo. Che becco, guarda io, quello che c'ha le idee, quello che c'ha le idee fa sta roba. Mi viene nel cranio. Ora vedrete un filmato. Lo vedremo una volta sola. Poi, per distruggere le prove, mangeremo la pellicola. Ne toccano 7 metri a testa. Mia moglie ha preparato il caffè. Se volete c'è il bicarbonato. Ho detto Lulù, Lombardia, quasi Svizzera. Questa qui invece stacchia dal Gisa, basso Ticino, vergine. Mettetevi tutti e due. Se volete anche il mio di mangiare, prendetelo. Prendetelo, perché io tanto non c'ho fame. C'ho uno spacco qui dentro. Scusate, signor Massa, una curiosità, ma voi come fate a coprire quei tempi? È che io in fabbrica mi annoio, mi rompo i coglioni. Allora lavorano, lavoro, cosa devo fare? Senti il concetto. La vita, traguardo, striscione, tutti dentro in pista, qui dentro siamo tutti in corsa. Io sono un campioncino qui dentro, lei lo sa, è vero? È vero. E poi ci sono i terroni, come questo qui, Sicilia orientale, che sono tutti dei pendolari. Al mattino arriva qui già stanca e io li frego sul rimo. Io sono riuscito a tirar su 25.000 lire in un mese di cottimo, 25 carte, ma a pedalare, pedalare! Perché io mi concentro, io sono concentrato, Io ho una tecnica per concentrarmi, lei lo sa. Mi fisso col cervello, penso a un culo. Il culo di quella lì. Qui dentro non c'è mica altro da fare, cosa vuoi fare? Ora pensavo al nostro amore giorni fa. Com'era nato, sebbene contrastato. Lo so. È stato proprio un fulmine, un baleno. Sì. Né più né meno che un botto a ciel sereno. Potrà finire. No, mai, adorata. Se un dì ti stancheresti tu di me. No, tu di me. Io no de te. Che vale disputarci sopra ciò? Te dico no, io mai me stancherò. Adorata! Quanto devi aver sofferto. Che giorni ho passato senza te. Amoroso. Disoccupato, eppure poco amato. Ore! Presente! Ore, ore! C'è stato fra noi due un qui per qua che ci turbò, ma esso ormai passò. Amore trionfò! What a lovely day! Se tu mi lasceresti, amore, un dì! Today! Basta così! E vabbè, se fa per dì! Che vale rinfangare quel che fu. Non l'ami più. Ci sei soltanto tu. Essere unico. Amo del mio destino. Je m'appelle Ponquia. Je suis ici pour une information. Pourquoi aujourd'hui, il a de sortir de la prison, mon ami en italien, il m'a dit qu'il a de sortir aujourd'hui à midi, à cette mañana, à les deux après. Bonjour. Je m'appelle Ponquia et je suis pour une information à les 2 heures après-midi et da sortir en italien. Questo non capisce niente, ragazzi. Come cosa capisce? Branca, branca, branca, leon, leon, leon. Sei tu capitano? Sì, sono io. Ego Vasilisa. Vasilisa. Vasilisa? Sì. Bellissimo nome. Io sono lo russo, Nicola. Io parlare per Dugliamo. Ergassia, capisci? Conosciamo certo Ergassia, Dugliamo Ergassia. Lavoro. Lavoro. Al lavoro? Volere parlare per lavoro. E che lavoro fare? Io sono puta. Puta che in greco... Una puttana. Per piacere! Sì, bravo. Puttana. Sì. Bravo. Bravo. No, dicevo, per piacere, c'è modo e modo di dire il concetto resta quello. Può interessare? Io devo dare un'occhiatina al regolamento perché sa, noi siamo molto, molto... Però può interessare. Va bene. E dove, diciamo così, professare? Cioè dove... Dove si esibisce nelle sue manifestazioni la casa? Mia casa. Sua casa. Anche un mezzo appuntamento al bar con gli altri, non... Senti, ma che tipo di festa è? Non è che alle 10 state tutti a ballare i girotondi e io sto buttato in angolo, no? Ah no, se si balla non vengo. No, allora non vengo. Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo, in controluce. Voi mi fate, Michele, vieni di là con noi, dai. Io, andate, vi raggiungo dopo. Vengo. Ci vediamo là. No, non mi va, non vengo. No. Avete ascoltato Addetti al cinema, c'è un diverso atteggiamento da parte degli spettatori nei confronti del cinema e questo per merito anche dei nostri film. Tanti nostri colleghi... Ma quali colleghi? Non ho colleghi io. In Italia sono l'unico tra i nuovi registi ad avere talento. Voi siete aridi, non sapete cos'è il cinema. Siete corrotti dal vostro desiderio di potere, desiderio ingiusto, dato che siete anche cretini.